Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, questa settimana abbiamo davvero tanti racconti e spunti interessanti, dall'Afghanistan all'Irlanda, senza dimenticare San Valentino, celebrandolo in giro per Milano, il sommario. In questa puntata voliamo in Afghanistan, paese troppo spesso presente solo nelle cronache di guerra, che invece nasconde colori e tradizioni capaci di segnare il cuore. Poi ci spostiamo in Irlanda, Galway, capitale della cultura europea 2020. In chiusura di puntata parleremo di San Valentino, con appuntamenti molto speciali per i milanesi. La Repubblica Islamica dell'Afghanistan è un paese che non vede il colore del mare, ma dove il blu del cielo non sembra da meno. In note a margine di una sconfitta, Nadim Aslam, scrittore pakistano, scrive, guardando il cielo tra Afghanistan e Pakistan, è di un azzurro così limpido che sfiora la gioia, che è un po' quello che ci racconta Filippo Tenti, tour leader di Adventure Overland, che subito ci rassicura sulla natura dei viaggi che organizzano. Diciamo che fisicamente sono per tutti. Magari è più che altro, sono cose molto di nicchia, sono viaggi molto di nicchia, molto particolari, che comunque sono per persone che hanno veramente voglia di conoscere il mondo in profondità e non semplicemente, diciamo così, farsi qualche selfie in spiaggia, mettiamola proprio brutale così. Sono dei viaggi che sono veramente interessanti. Io ho lasciato il cuore in un sacco di questi posti dove sono andato, per esempio appunto l'Afghanistan lo considero uno dei paesi più belli che io abbia mai visto in vita mia, ma non solo dal punto di vista del panorami o della natura insomma in generale, ma anche proprio delle persone, che dai media viene dipinta in modo, insomma, cosa ti aspetti dall'Afghanistan? Che appena metti piede sul terra afghano magari qualcuno ti sequestra, invece no, c'è la gente più bella, più simpatica del mondo, più gentile, che ti accoglie subito in casa. Passeggi per un villaggio di contadini vicino a Mazar-i Sharif nel nord dell'Afghanistan, e improvvisamente un anziano ti prende per mano, ti porta subito in casa e ti fa vedere con orgoglio casa sua, manda la nipote a comprare una torta, ti fa assaggiare il tè, i biscotti, lo yogurt fatto alla mattina dalle proprie caprette. Sono bellissime le persone lì. Filippo, a proposito dell'Afghanistan, volevo chiederti, sì, secondo te è possibile che proprio perché è un popolo che ha subito sulla propria pelle diversi conflitti e è stato sottoposto anche a regimi veramente odiosi, abbia questo approccio, questa apertura nei confronti, lasciami il termine, dello straniero? Secondo me è proprio nel loro DNA e deriva da qualcosa di ancora più vecchio. Cioè loro sono alla fine sono in mezzo a tutto, erano in mezzo alla Via della Seta, erano in mezzo comunque a tutte delle vie commerciali che dovevano per forza di cose passare da lì. E quindi erano abbastanza abituati a vedere stranieri che passavano di lì sempre in difficoltà per una ragione o per l'altra, ed è entrato proprio nel loro DNA, nel loro codice morale, il fatto di aiutare lo straniero. Poi probabilmente queste invasioni che ci sono state dall'esterno, a partire dall'Ottocento con il grande gioco tra gli spie, tra i russi e gli inglesi, per poi passare ai sovietici, per poi passare agli americani, insomma di sicuro gli hanno un po' fatti diventare un attimino titubanti, d'accordo, però nel loro DNA c'è sempre questa voglia comunque di conoscere chi viene dall'estero. Una volta mi hanno fermato sulla strada che andava, diciamo, da nord a sud dell'Afghanistan, e l'ambasciata e tutti mi dicevano: non fermatevi assolutamente per nessuna ragione su quella strada, perché è pericolosissimo, zone Pashtun, pericolosissimo. E cosa ci succede? Cioè, bucata una gomma. Succede però, anche lì evidentemente. Assolutamente. Cioè l'unica gomma fogata in tutto il viaggio, proprio lì. E allora ci fermiamo, ovviamente bisogna cambiarla. Tempo un minuto, siamo circondati da un sacco di ragazzi, giovani, insomma, che attratti dal fatto che erano stranieri, sono venuti e ci hanno parlato con un inglese perfetto. E poi soprattutto era bellissimo sentire le loro domande, cioè mi chiedevano prima di tutto com'era l'Italia, com'era l'Europa, com'era insomma il mondo, perché loro hanno il passaporto peggiore, diciamoci la verità, cioè non possono uscire dall'Afghanistan anche volendo. Ma soprattutto una domanda mi ha colpito: com'è il mare? Una cosa che noi diamo così per scontato, cioè noi da Milano io scendo giù un'ora e mezza, vado a vedere il mare in Liguria per dire e lo do per scontato. Invece loro l'hanno visto solo in foto, perché ovviamente hanno i telefoni, hanno la possibilità di vedere internet, e hanno visto il mare solo in foto, si chiedono com'è. E adesso è una cosa così scontata, cosa si può rispondere? È blu, è salato, quindi non bisogna berlo, ci si può fare il bagno. Però mi ha molto stupito questa cosa. E il fatto che loro sono così curiosi, ma così ospitali, è una cosa bellissima, che mi ha sempre colpito dei viaggi in Afghanistan. Quello che tu hai detto mi induce ad alcune riflessioni ed osservazioni. La prima è che, come dicevi, non possono uscire dal loro paese, ed è anche per questo che poi in tanti tentano e arrivano anche in Europa, e lo sappiamo perché nelle isole greche ci sono tantissimi afghani che arrivano via terra, che cercano di scappare. La seconda è che, rispetto a quello che dicevi, è sempre opportuno recarsi in paesi di questo tipo accompagnati da chi li conosce bene, perché è vero che tu dicevi ci hanno quasi fatto appunto del terrorismo psicologico sul non fermarci, che magari però ecco anche la sua valenza, però mi permette di a questo punto chiederti che tipo di viaggio e che tipo di giro organizzate voi in Afghanistan. Certo. Beh, diciamo che è stato parecchio in Afghanistan. Quell'esperienza mi ha permesso di conoscere prima di tutto il territorio, ma anche un sacco di persone molto importanti, da comunque ministri a capi della polizia, a consoli in Italia, gente che comunque nel caso di necessità può sempre dare una mano, ma soprattutto di capire bene come funzionano le cose lì. E se uno non le vive per così tanto tempo, non può capire. I giri che noi organizziamo sono comunque nelle zone più sicure in assoluto dell'Afghanistan, per esempio mi viene in mente i laghi di Bande Amir o la zona di Bamiyan dove c'erano le nicchie di Buddha. Sono comunque zone dove anche durante il periodo della guerra che c'è stato in Afghanistan non c'è stato mai niente, perché comunque sono zone, per dire la zona di questa zona che ho appena citato, sono zone dove ci sono un gruppo etnico degli Hazara che sono più simili, diciamo, ai mongoli come fisionomia, infatti si dice che discendono da Genghis Khan, rispetto alle zone un po' più pericolose, che sono zone Pashtun, dove l'etnia è molto più diciamo araba come fisionomia. E quindi il momento che un Pashtun entra nella valle, subito si capisce e la gente lo manda fuori. E sono zone assolutamente tranquille dove non succede nulla. Ci sono però molti posti in Afghanistan che non si può nascondere, che sono ancora molto pericolosi. Quelli lì ovviamente bisogna evitarli. Però in alcuni casi, per esempio nella zona nord di Mazar-i Sharif, dove ci sono dei posti molto molto belli, capita che ogni tanto ci siano degli scontri ancora, dei problemi di sicurezza. Quindi è sempre molto importante avere prima di tutto molta esperienza sul campo, ma soprattutto avere dei contatti non improvvisati, ma della gente che ci sappia veramente fare. Bisogna avere un po' di esperienza per viaggiare in questi posti, non è che è proprio così tanto facile. Certo, fatta nel modo giusto è molto fattibile ed è assolutamente sicuro. Volevo chiederti questa cosa. Intanto vorrei capire come vi organizzate dal punto di vista delle strutture quando andate appunto in Afghanistan. E poi volevo chiederti anche qual è la cosa che secondo te resta più impressa di un paese così, se l'odore, i colori, appunto come dicevi la gente, cioè che cos'è che davvero ti riporti a casa? Beh, allora, dal punto di vista delle strutture, comunque ci sono delle bellissime strutture in Afghanistan. Un po' stanno provando, anche con tutti i problemi che hanno avuto, anche se hanno avuto un sacco di problemi in passato, ci stanno provando ad accogliere turisti, a creare delle strutture adatte agli stranieri. Le strutture comunque variano da guest house, a hotel anche molto, molto belli, diciamo, cioè, tranquillamente alla pari degli hotel nostri occidentali. Quindi sono comunque, la cosa molto bella comunque è che il primo giorno che si arriva lì, la prima cosa che faccio fare è prendiamo un sarto, facciamo prendere misure di ogni partecipante e ci fa un vestito su misura afghano, quindi comunque per tutto il percorso viaggiamo con vestiti loro, quindi siamo tranquillamente mimetizzati nella folla. Invece dal punto di vista di ciò che si porta a casa è veramente il fatto che le aspettative in Afghanistan, cioè l'aspettativa della pericolosità, oddio, adesso qualcuno ci fa un assalto, veramente sono infondate. Quindi torni a casa capendo veramente che il mondo è molto diverso da quello che comunque viene raccontato normalmente dalle notizie, dalle riviste. E soprattutto il fatto che anche nei posti più cioè il posto più strano dove si può andare, come l'Afghanistan, che tuttora, cioè che in questo momento penso che nessuno ci pensi, si riesca a trovare uno dei posti più belli in assoluto, con per esempio i bellissimi laghi di Ban de Hamir, dei laghi che sono a 3.000 metri di quota, sono sei laghi uno dopo l'altro con delle dighe naturali di travertino che si sono formate nei secoli. E davvero sullo sfondo le montagne dell'Hindu Kush innevate, questi canyon tra i laghi che hanno creato queste gole dove si è infilata l'acqua. L'acqua soprattutto così cristallina e blu, di un blu intenso che riflette il colore del cielo che a quell'altitudine è un blu intensissimo. No, veramente ci sono dei posti che sono magnifici. Ma soprattutto, come dicevo prima, le persone che trovi delle persone simpaticissime, gentilissime, con un'ospitalità incredibile che difficilmente trovi ormai in tante altre parti del mondo, dove ormai il turismo si è diffuso così tanto e purtroppo i loro modi di fare si sono un po', diciamo, un po' rovinati. Quanti giorni proponete in Afghanistan? Il giro che proponiamo sono di 10 giorni. Atterriamo a Kabul, da lì, basta vedere Kabul, ci dirigiamo, andiamo a vedere la valle del Panjshir, dove c'è il famoso leone del Panjshir, che ha combattuto, il Mujahideen che ha combattuto contro i russi, c'è cioè il suo mausoleo, ed è una valle bellissima. Poi andiamo nella zona di Bamiyan, ci trasferiamo sempre in aereo, nella zona di Bamiyan dove c'erano tutta una zona comunque dove sono arrivati dei monaci buddisti centinaia di anni fa e hanno creato nel corso dei secoli tutte delle nicchie dove dormivano e poi dei Buddha che purtroppo però sono stati distrutti dai talebani nel 2003. Poi andiamo ai laghi di Ban de Hamir e poi andiamo nel nord, a Mazar-i Sharif, per vedere un'altra città che tra l'altro adesso a fine marzo ci sarà il loro capodanno, il Nowruz, il loro capodanno, e in onore del loro capodanno ogni anno organizzano il torneo di Buzkashi, che è il loro sport nazionale più grande e più importante di tutto l'anno. Quindi sono qualcosa come 200 cavalieri contro 200 cavalieri che si affrontano, veramente abbastanza uno spettacolo vedere questo torneo, quindi è molto bello. E poi si torna a Kabul e si ritorna indietro. Ci fermiamo per qualche istante, restate con noi. Globetrotter 24. Con un lungo salto salto siamo arrivati in Irlanda, città portuale di Galway, quest'anno capitale europea della cultura. La grande inaugurazione è cominciata ieri e durerà una settimana. Niamh Kinsella è la direttrice di turismo irlandese in Italia ed è lei a raccontarci come si è preparata la città. Con enorme entusiasmo e eccitazione, c'è proprio un orgoglio in tutta l'isola che Galway è stato nominato capitale europea della cultura 2020. Coinvolge tutta la comunità, sia della stessa città di Galway, sia di tutta la contea di Galway, che contano in totale intorno a 258.000 persone, dunque con migliaia di volontari, con la comunità non solo artistica ma anche proprio tutti sono coinvolti, e perché è l'evento culturale più complesso mai organizzato sull'isola d'Irlanda, e la cerimonia di apertura è prodotta dallo stesso team che ha gestito le Olimpiadi di Atene, di Londra, di Pyongyang. È una cerimonia che è partita domenica scorsa e dura tutta una settimana, perché noi in Irlanda ci piace fare festa, è una bella scusa. Quali sono le cose da fare, le principali cose da fare durante questo anno? Contiamo non meno di 1900 eventi, che dunque è impossibile ovviamente citarli tutti, sono organizzati in quattro momenti, seguendo una cosa particolare, seguendo l'antico calendario celtico. Tutto il calendario è organizzato intorno a tre temi principali, che sono la migrazione, il paesaggio e la lingua. Temi che direi sono proprio legati profondamente alla terra di questo paese, perché Galway proprio si trova al confine dell'Ovest Irlanda, il capoluogo dell'Ovest, e con una cultura, un carattere già molto bohemien. Dunque è proprio perfetto per ospitare questo anno lungo di eventi culturali. E la cosa bella è che per la maggior parte sono gratuiti. In tanti sono anche partecipativi, nel senso che la gente del posto e anche i visitatori sono invitati a farne parte. Un esempio che posso citare durante questa prima stagione di In Bulk è organizzato la creazione dall'artista delle luci finlandese che si chiama Kari Kola, intitolata Savage Beauty, che è un'opera che illuminerà le montagne del Connemara. Sarà un evento molto spettacolare, ispirato dal detto di Oscar Wilde, che conosceva molto bene la zona di Galway, e l'ha chiamato selvaggia bellezza, che dunque in inglese è savage beauty. E questo capiterà il 17 marzo, non coincidentalmente il giorno del San Patrizio, quando tanti monumenti attraverso il mondo si illuminano di verde, incluso un'abbazia di Matera. Diciamo che magari si può prendere la palla al balzo e partire da Galway per fare anche un piccolo giro. Magari si può consultare il calendario, scegliere un evento di questo anno che può interessare e poi magari fare un piccolo giro. Lei che cosa consiglierebbe nei dintorni? Allora, come ho detto, è posto all'ovest della nostra piccola isola, proprio a metà strada lungo la Wild Atlantic Way, che è questa strada segnalata che dura 2400 chilometri, tutto lungo la costa atlantica. Dunque io direi si può partire comodamente da Dublino, che tanti aeroporti italiani hanno voli diretti a Dublino. In meno di 3 ore si arriva già nella contea di Galway. Clonmacnoise è un posto bellissimo, un'antica monastera sulle sponde del fiume Shannon. E c'è tutta la contea di Galway da esplorare, partendo dalla città stessa di Galway. Si possono anche visitare le isole Aran, spettacolari isole di selvaggia bellezza anche quelle, tutto da pietra giunte nell'Atlantico. Si può scoprire il Connemara, che è questa zona montagnosa di brughiera, molto emozionante per la sua vastità, anche poco popolato, però posso assicurare che i paesini, che siano porticcioli lungo la costa o anche i paesini nell'entroterra, sono molto invitanti. Sono posti come Clifton, Cleggan, questi villaggi costieri, ma anche all'interno c'è anche l'abbazia di Kylemore, un posto neogotico molto bello da visitare, con un giardino di quelli d'epoca che servivano la grande casa. Poi c'è il fjord di Leenane, di Killary, che si possono fare bellissime gite in barca. Ci sono tante cose da fare, ma senz'altro dovrei anche nominare la nostra cultura gastronomica, che farà anche parte di questo anno di eventi culturali. Dunque, assaggiare prodotti freschi come le ostriche, il salmone affumicato, il salmone selvaggio pescato nella baia di Galway, questo fa anche parte di una visita, magari entrando in un pub e vivere questa esperienza. Perché questo, l'anno di Galway 2020 cerca di coinvolgere e far incontrare da tutti i visitatori la gente del posto, che è un posto migliore che in un pub tradizionale, tipica, magari anche ascoltando un po' di musica dal vivo. Mamma, che ne dici di un romantico a Milano? Fra i manzoni preferisco quello vero, Piero. Tra meno di una settimana sarà San Valentino e allora noi abbiamo chiesto agli amici del Touring Club Italiano cosa hanno in programma qui a Milano. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.touringclub.it. Noi ci siamo fatti raccontare gli appuntamenti principali da Erika Iotta. Celebrare, ecco, l'amore in modo appunto diverso e particolare, quindi dedicandolo a tutti gli effetti alla scoperta di luoghi d'arte e cultura, tant'è che insomma un po' il nostro invito è proprio quello di andare a vivere l'amore per l'arte e la cultura e farlo in luoghi d'eccezione a Milano. In 5 luoghi sarà possibile visitarli e scoprirli, sia attraverso proprio delle visite all'interno di luoghi come San Maurizio al Monastero Maggiore, che sarà eccezionalmente aperta venerdì, sabato e domenica fino alle 22:30, quindi anche potendola ammirare al chiaro di luna in qualche modo, con questa sua volta stellata meravigliosa, o ancora la Basilica di Santa Maria presso San Satiro, che è in un luogo molto centrale a Milano perché siamo nei pressi di Via Torino e che venerdì vedrà appunto l'accoglienza dei nostri volontari, che racconteranno moltissimi segreti di questo luogo che davvero ha fatto la storia dell'arte. O ancora, sempre in una zona centrale, sabato e domenica l'accoglienza alla chiesa di San Fedele, quindi anche qui siamo davvero in centro a Milano, un luogo che magari pochi milanesi conoscono ma che è ricco di suggestioni. Però gli eventi per eccellenza saranno invece in 2 luoghi, 2 vere e proprie chicche, alla Casa Museo Boschi di Stefano e a Casa Verdi. A Casa Museo Boschi di Stefano perché celebra davvero l'amore in tutte le sue forme. Si tratta di un luogo in una zona che normalmente è conosciuta per lo shopping, perché siamo nei pressi di Corso Buenos Aires, in via IAM, e invece cela davvero uno scrigno sia dal punto di vista architettonico, perché è una casa di Portaluppi, una casa meravigliosa dove all'interno è proprio celata una collezione d'arte contemporanea, e sia l'amore in quanto tale, perché questi due coniugi appunto Boschi di Stefano, furono tra loro innamoratissimi e innamoratissimi appunto dell'arte, e quindi riportiamo in auge quella che era una loro tradizione, perché loro nel corso insomma degli anni 30 del Novecento aprivano le porte di casa loro con questo sottofondo musicale, quindi suonando proprio il jazz dal pianoforte, un pianoforte che ancora oggi è in funzione, ancora oggi si può ammirare, e quindi anche noi riapriamo le porte della loro casa, permettendo non solo di scoprirla, di scoprire moltissimi aneddoti, di risentire questo sottofondo appunto delle note jazz, ma anche di approfittare di un meraviglioso e prezioso aperitivo che faremo in una delle zone inedite della casa, quindi è una tradizione, anche questo era aperitivo molto amato dai milanesi. Vi amo, ma vi odio però. Vi amo tutti, è bello e brutto solo questo. L'altro invece appunto a Casa Verdi, quindi anche qui un luogo conosciuto ovviamente per via insomma del musicista, tra l'altro dove è molto voluto in realtà appunto proprio da Giuseppe Verdi, perché fu quella che lui considerava la sua opera più bella, quindi una casa di riposo per i musicisti, che sarà coperta grazie a delle visite guidate teatralizzate, quindi in questo caso il racconto non sarà solo una visita guidata, ma davvero dei personaggi torneranno dal passato per raccontarci un Verdi totalmente inedito. Erika, come si fa a partecipare? Perché immagino che soprattutto per alcuni di questi appuntamenti l'ingresso sia libero, ma non sia a numero illimitato. Assolutamente, gli ingressi sono appunto diversi, soprattutto abbiamo anche degli orari diversi di partecipazione e di prenotazione, per questo è fondamentale andare sul sito tuttoclub.it/San Valentino in modo da vedere tutti i dettagli, sia orari e sia tutte le modalità per poter partecipare e godersi davvero insomma un weekend speciale anche da un altro punto di vista. E per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. Un ringraziamento in regia Paolo Corleoni, a tutti voi l'augurio di una bella settimana.